permetto intanto di dire a Giuliano che è un perfetto cretino. Ma perché? No, ma io... ma perché scusa, perfetto? Ma io non capisco perché Giuliano, guarda, queste tue battute amicizia sono insopportabili, ma non me ne frega niente di un'amicizia fatta come questa. La Zanzara. Beh, cari ascoltatori, che cosa avevo detto? Scusatemi, oggi ho la voce un po' bassa, caro Prenzo, mi aiuterai? La voce un po' alla Paradiso, alla Maurizia Paradiso, diciamo. Sì, sì, molto trans. Calda però, bella. Cosa vi avevo detto? Che avevi detto? Cosa vi avevo detto? Quanto sarebbe durato il signor Battiato? Che noia. Molto poco, adesso sembra, sono voci, ma vedrete che saranno confermate, che voglia rinunciare anche al turismo. Sapete che non voleva fare la cultura perché è troppo impegnativo, ho i miei concerti, il mio tour, voglio occuparmi solamente del turismo e dello spettacolo. Adesso non vuole occuparsi, pare, sembra, neppure del turismo. Nel senso che l'assessorato alla cultura vuole dire teatri di tradizione, un pasticcio enorme e poi una frequenza a Palermo che non sarei in grado di sostenere perché ho molti impegni già presi da tempo. Invece con l'assessorato al turismo e spettacolo posso fare le stesse cose che avrei potuto fare nell'assessorato alla cultura, ma con più libertà. Caro Battiato, decidi una volta per tutte, basta. Basta con questa farsa. Abbandona questo incarico definitivamente. La farsa è durata fin troppo, una ventina di giorni. Basta, basta. Vai a fare, come è normale che sia, i tuoi concerti, tutto quello che devi fare. Poi basta, finito. Ma non è neanche pagato. Stop. Non è neppure pagato, non ha chiesto una lira. Ma non serve un assessore. È un ruolo simbolico, è un ruolo di rappresentanza. Facesse la Madonna Pellegrina per conto di Crocetta. Già lo fa, va ai concerti, rappresenta la Sicilia nel mondo. Se uno no? deve fare il... come dire, ce l'hai combattiato, ma benissimo. Io non ce l'ho combattiato. Battiato... Anziché prendetela con Ghedini, te la prendi combattiato. Va bene, ma che c'entra Ghedini e Battiato? Non è l'alternativa. No, ho capito, però ti sei concentrato, si è concentrato. No, il signor è Cruciani, notizia di capo oggi. Supremo del Gulag della Zanzara. Lei si è concentrato su questo signor Battiato, che non prende una lira, non ruba soldi a Crocetta, alla Regione Sicilia, mette a disposizione il suo know-how, il suo brand, la sua storia. Benissimo, lasciasse fare l'assessore a qualcun altro, però. Siccome l'assessore è un mestiere che bisogna fare quotidianamente sul pezzo, lui ha detto, io stando no, sul pezzo, lui non lo faccio, vuole fare. Quello che so fare, cioè organizzare facesse spettacoli, gratis, eventi. Se lo immagino, ogni tanto. E questo farà. Nulla ma di non più. È l'assessore questo. Nulla di... Vabbè, chiamalo Bobo. Vabbè. Che non mi faccio mai cambiare idea. Intanto il signor Francesco Storace, conosci? Ho sentito nominare, sì, qualche il capo volta. Della destra. Sì, ho sentito. Che ha fatto, signor Storace? Dice informazione di merda, così. Così, tranchant. Tranchant, così, quello pulito. A proposito del fatto che poche righe sono state date dai giornali dopo la sua assoluzione nella vicenda del Lazio Gate, al confronto di quanto invece è stato regalato tra virgolette a Vendola per la sua assoluzione. Ma sono due cose diverse, Storace. C'è da capirli i giornali. La tua vicenda risale a qualche anno fa. La vicenda di Vendola è fresca. È fresca. Vendola è candidata alle primarie. Su, Storace, dai. Perché noi abbiamo esercitato il diritto alla protesta, alla rinuncia. Abbiamo detto no al compromesso col potere. E questa informazione, chiedo scusa, di merda, non fa sapere ai cittadini la verità. Noi abbiamo detto di no a fare i ministri. Vabbè, la verità di Storace, poi la verità, sai, la verità. Vabbè, è stato assolto. Sulla viva. Parola verità. Siamo felici che è stato assolto. Mo io sono felice che è stato assolto. Quando uno certo. è assolto sono sempre felice io. Poi dice così a Repubblica TV, non ho spazi nell'informazione, quindi affigo manifesti anche abusivi. Io non ho spazi per far sapere alla gente la mia posizione. Io vi ringrazio molto per questo spazio che è importante, è casuale. La RAI, Mediaset, i giornali. Se io non avessi affisso almeno a Roma, perché non c'ho i soldi per farlo in tutta Italia, i manifesti un po' strani sulla mia assoluzione ed difficile che un imputato assolto faccia un manifesto. Abbiamo questa gente che si lamenta perché non è ospite, perché non riesce a far passare il messaggio. Non so, istintivamente mi dà un po' fastidio, devo dirti la verità. Anche Renzi si lamenta ultimamente, eh? E anche Tabacci, l'amico Tabacci. Quante volte lo abbiamo chiamato, signor Bruno? Ma non siamo così fighi perché facciamo le domande che bisogna fare. Perché non rinunci al doppio incarico, signor Tabacci? Resta sempre in evasa questa domanda ed è per questo che non vieni qui, caro Tabacci. Se la piglia con Annunziata e Fazio perché non lo hanno invitato, e chi se ne frega? Beh, la dottoressa Annunziata, diciamo, riceve prima Bersani, poi Renzi, poi Vendola, ricevendo Vendola dice con lei chiudiamo la partecipazione dei candidati alle primarie, insomma, se questo è il servizio pubblico, e poi anche Fazio non è andato. Cioè, qual è il motivo per cui si invitano tre persone e non si invitano le altre due? Cosa c'è? Una sorta di pregiudizio? Perché ognuno fa quello che vuole. Non ci sono delle cose comandate, non c'è la par condicio, sono primarie di coalizione, di partito, chiamatele come volete. Ognuno fa quello che vuole nell'informazione, caro Tabacci. Però lui fa bene a far polemica. Ma lui fa protesta. Sollevare, a far polemica. Protesti pure, bene. Poi però la mattina, quando è stato invitato dal signor Milan, non si è presentato. Vabbè, questo noi non sappiamo. Non si è presentato? No. E il signor Milan che ha fatto, signor Milan? Si è incazzato? Il signor Milan? Ma spero che lei abbia letto oggi il giornale del signor Sallusti. Perché? Che è successo? No, perché il giornale del signor Sallusti oggi apre, Sallusti mio, con scritto trame oscure. Chi c'è dietro il sequestro del cassiere di Berlusconi? Io vado ai matti quando stamattina ho letto sta roba. Perché? Perché il mio amico signor Luca Fazzo scrive su Il Giornale. C'è dell'altro, qualcosa di importante deve ancora succedere. Si dice ieri nell'entourage del Cavaliere, un livello superiore che potrebbe aver guidato la mano della banda nel sequestro Spinelli. Sallusti! Perché? Perché? Aspetta, aspetta. Trame oscure, perché? Io ando a piangere. Stanno bloccando le strade. Che succede? Tutti parlano dell'annuncio di Schifani, pochi minuti fa. Di chi? Schifani, presidente del Senato. Schifani, seconda carica dello Stato, certo. Sì, del Senato alla legge elettorale entro la prossima settimana. No, non parli di legge elettorale che si aumentano gli incidenti nelle strade, la gente si addormenta. No, no, no, non faccia così. Battiato, dimettiti! No, non è roba tua, dimettiti! No. Meloni, che si candida giustamente alle primarie del PDL, giustamente. I colonnelli avrebbero già dovuto dimettersi, dunque in rotta di collisione con Gasparri, La Russa, i suoi ex amici, eccetera, eccetera, che non vogliono perché appoggiano il signor Alfano. Quindi se lei vince le primarie non manda a casa i colonnelli del PDL? Guardi, i colonnelli del PDL secondo me a livello di responsabilità apicale avrebbero già dovuto dimettersi. Che non mi faccio mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. E siamo qui 800 24 00 24 con Pier Giorgio O Di Freddi. Buonasera. Ah, professore. Buonasera a voi. Come sta? Tutto bene, grazie. Caro voi. Di Freddi, che le ha combinato Repubblica? Lei abbandona in sostanza la collaborazione del gruppo Repubblica? O sbaglio? No, io in realtà ho chiuso il blog che avevo, sì, su Repubblica.it. Sì. Perché mi sembra che, insomma, se uno può fare queste cose con tranquillità, sì, e in spirito di libertà. Queste, diciamo, cose quali? Forse anche esagerando, perché a volte poi succede, no? Sì. Che scappino delle cose magari eccessive. Per far capire agli ascoltatori, Di Freddi, lei ha scritto questo post, chiamiamolo così, insomma questo scritto per la gran massa delle persone che ci stanno ascoltando. Questo scritto, 10 volte peggio dei nazisti, questo è il titolo, sulla vicenda di Gaza, Israele, i palestinesi, eccetera, eccetera. Cioè lei sostiene che quello che sta facendo Israele con Hamas, Gaza, eccetera, sia 10 volte peggio dei nazisti. Qui già c'è Parenzo che sta friggendo. No, frigo perché sono delle scempienze, però scempiaggini totali. Lei come fa a sostenere che quello che sta facendo Israele è 10 volte peggio dei nazisti? Partiamo da qui. Ho fatto semplicemente ovviamente sa, sono un matematico, ho fatto un paragone numerico, ho detto che noi, io per esempio sono nato nel 50, no, quindi ovviamente le stragi della guerra erano ancora molto presenti nei racconti, no, si ricordava sempre la strage delle fosse ardeatine, no, sì, per dire quanto fossero efferati i nazisti, perché avevano giustiziato, tra virgolette, ovviamente, no, nel loro senso di giustizia, allora? 335 in realtà avrebbero dovuto essere 320 italiani, no, in ritorsione alla morte di 32 invece tedeschi, cioè un rapporto di 10 a 1 che tra l'altro era stato ordinato direttamente dal Führer. Ma sta facendo la stessa cosa, Israele sta facendo la stessa cosa secondo lei? E appunto, poi ho fatto notare, no, appunto, che se queste cose sono efferate, per esempio nell'operazione Piombo Fuso che ci fu 6 anni fa, che era una ritorsione israeliana nei confronti dei palestinesi, perché in 8 anni di guerriglia, diciamo, dunque, Hamas aveva colpito con razzi, aveva fatto 15 morti, e beh, in questa ritorsione ce ne sono stati, secondo il rapporto dell'ONU, 1400, quindi effettivamente in un rapporto di 101, in questo senso, no, forse paradossale. Cioè, lei dice anche, scrive anche, se sono stati condannati all'ergastolo Kesselring, Kappler, Priebke, bisognerebbe condannare l'ergastolo anche Netanyahu e i generali israeliani? Siamo alla follia. Ma siamo alla follia totale, professore. Lei sarà anche un matematico, ma con grande rispetto di politica estera non capisce un bene amato cazzo. Ma detto, detto con un rispetto totale, nulla, perché in realtà queste cose non succedono mai, e sappiamo benissimo che i tribunali internazionali naturalmente processano chi fa comodo loro. Ma cioè, secondo lei davvero bisognerebbe processare come dire, i capi politici di Israele e i generali? Beh, per crimini di guerra? No, lo dica, lo dica. Coloro che usano la guerra su popoli che poi in realtà sono... Capito, Di Freddi, se lei fa il paragone con i nazisti... Ma lei, ma lei paragona, professor matematico, lei paragona, o di professor Di Freddi, matematico, universitario, eccetera, lei paragona uno Stato democratico ai nazisti. Benissimo, lei fa il matematico, prendo uno... Cosa significa Stato democratico? Se soltanto il fatto che si arriva al potere con le elezioni, le ricordo che anche Hitler è arrivato al potere con le elezioni. Se democrazia significa... Non ci sono ambulanze... Porta in un certo modo, temo che Israele non sia particolarmente democratico. Allora, traffico, torniamo subito. 18, ma che traffico? 47. Ambulanza? Come un traffico? Attimo, ambulanza, casomai dopo Di Freddi conferma tutto, però il problema adesso è un altro, non sono tanto le idee di Di Freddi, che uno può dire... Può contestarle. Può contestare, eccetera. Ma un titolo del genere, uno scritto del genere, in cui si paragona Israele ai nazisti, può essere pubblicato, oppure ha fatto bene Repubblica a cacciare Di Freddi? Cioè, anzi, se n'è andato lui, a cassare questo scritto. Le zanzare di casa mia. La vicenda Spinelli, questo ragioniere, 12.000-13.000 euro al mese di stipendio, Lordi. Berlusconi. Lordi, sì, Lordi, che vive in questo palazzo anonimo a Segrate, è una persona molto rigida nei suoi comportamenti, nel suo modo di vivere, che è oggetto di un sequestro. Chi era questo Spinelli, caro Parenzo? Quello che pagava è conosciuto adesso dai più, prima era totalmente sconosciuto, per aver pagato le olgettine. Il bancomat delle olgettine. Esatto, si rivolgevano sempre però a dal lui. 76 che quest'uomo ombra vive al fianco del cavaliere. Pecorella, avvocato di Berlusconi. Singolare. Devo dire che è la prima volta che vedo un sequestro che avviene in casa, da quello almeno che ho letto, nel centro di una città, dove i sequestratori offrono qualcosa in cambio del pagamento del riscatto. In genere semplicemente si sequestra qualcuno, lo si porta in un buco in campagna e poi si aspetta di avere il riscatto. Se mi guardi, ti giuro, mi confondi, ti sento respirare. E poi non me ne ero accorto, la faccia come il culo del signor Arena. Arena, per carità, persona rispettabilissima. Mi era sfuggito ieri il tizio che per la Regione Sicilia è a Bruxelles a fare l'ufficio stampa della Regione Sicilia. Lasciamo perdere il fatto che serva un ufficio stampa della Regione Sicilia. Il signor Arena dice che sta parlando dell'indennità, non dello stipendio. Prendo meno di 1000 euro rispetto all'indennità di un bidello all'estero. Signora Arena guadagna 10.000 euro al mese, va benissimo, ma non si paragoni a un bidello all'estero. Ma perché? Perché? Guardi, io le posso dire, senza tema di essere smentito, che l'indennità che mi viene pagata è quella prevista dalle tabelle del Ministero con meno di 1.000 euro della qualifica inferiore. Io prendo meno di 1.000 euro di un bidello di un autista. Quando tutto sembra poesia. Pier Giorgio Odifreddi, mi dica una cosa, ma secondo lei il fatto che abbiano deciso di cancellare questo scritto 10 volte peggio dei nazisti, questo è il paragone che lei ha fatto con Israele, deriva dalla, come dire, dalla famiglia De Benedetti, mettiamola così. Dall'editore. Dall'editore. Credo che De Benedetti abbia cose più urgenti e anche più importanti da fare che non seguire queste piccole diatribe. Credo che ci sia stata, almeno questo è quello che ho sentito, una protesta abbastanza forte. Credo, di nuovo, no, perché la protesta non è stata fatta con me, bensì con il sito di Repubblica, di alcuni esponenti della comunità ebraica. Io, tra cioè chi tocca, scusi un attimo Di Freddi, chi tocca Israele muore? Questa è la sua tesi? Questa è la cosa interessante, perché io appunto nel blog, tra l'altro se lo va a leggere, no, si può trovare ancora, non più sul sito. Sì, che poi tra l'altro toglierlo dal sito non, alla fine non vale niente, perché poi in realtà questa polemica lo fa circolare molto di più. Ah certo, ma questo comunque ormai era già stato riprodotto, però dicevo sul sito, sul blog, io non parlavo assolutamente di ebrei, parlavo del governo israeliano e di questo particolare fatto. Sì, paragonando il governo ai nazisti, insomma, questa è la cosa, sì, professore. Sì, però, chi è stato a decidere di cancellare questa cosa? Questo mi immagino che sia stata la direzione del sito di Repubblica. Ma secondo lei non è legittimo? Proteste, scusi, no? Perché se n'è andato lei? Non è legittimo che l'editore sceglie? Infatti, non so se lei ha letto poi il post in cui io poi ho deciso appunto di andarmene. Io dico, ma è ovvio, io ero ospite, no, in un sito che non è mio e loro hanno tutti i diritti di farlo. Però poiché i blog sono interessanti, io non sono un giornalista professionista, quindi ho allora? Le mie opinioni, no, naturalmente, no? E se lo posso fare in libertà, nel senso di dire quello che penso, no? Allora va bene. Se invece devo preoccuparmi ogni volta che scrivo, perché oggi sono magari la comunità ebraica, però io per esempio prendo spesso posizione... Ma che c'entra la comunità ebraica? Sul Vaticano, sì, ma che c'entra la comunità ebraica? C'entra il fatto che il giornale cioè forse... è stata la comunità ebraica a fare pressioni su Repubblica, secondo lei? Così mi hanno detto. Così l'ha detto chi? Secondo lei chi poteva avere interesse, no, a fare pressione su questo? Beh, la linea editoriale del giornale, semplicemente il giornale ha ritenuto il suo scritto poco adatto. Però se lei pensa veramente che la comunità ebraica ha detto cacciate o Di Freddi, nessuno, con tutto rispetto al professore Di Freddi, comunità ebraica ha di meglio da fare, credo. Comunque permetta, non ho capito con chi sto parlando, soprattutto non ho capito per quale motivo devo usare questo tono. Io mi sembra che ma no, perché io mi accaloro molto... professore, io sono Parenzo, mi accaloro quando sento delle cose che reputo delle scempiaggini matematiche, scientifiche, scempiaggini scientifiche proprio. Però voglio dire, per carità, lei può dire quello che le pare, insomma. Appunto, è proprio questo. E allora se non posso dire quello che urlare mi pare, al complotto, volte, non ho fatto nessuna polemica, ma ho no, semplicemente detto che chiudevo il blog. Ma io mi accaloro. Ma va a votare per le primarie del PD, per caso? Del centro-sinistra? No, questo credo che non c'entri. Lo so che non c'entra, però è una curiosità. Va a votare per le primarie? Io ho fatto una presa di posizione pubblica a favore di Vendola, quindi... Ecco. Ma Vendola sa che lei paragona i nazisti agli ebrei? Non credo che allo Stato ebraico. Di questo, come d'altra parte non penso che quando qualcuno viene votato non si preoccupa di... No, così, per sapere, no, insomma. Però lei non è un passante, lei è il professor Oddi Freddi, non è uno qualunque. Sì, io per esempio, comunque dico, ho preso posizione a favore di Vendola, non dimenticando per esempio che lui è cattolico e io sono ateo, come vede, insomma, in politica non è che bisogna essere d'accordo su tutto, anche perché altrimenti credo che se si dovesse votare un candidato sul quale siamo pienamente d'accordo nessuno voterebbe nessuno. Ma lei, secondo lei, su Israele e i palestinesi Vendola pensa come lei? Non lo so, onestamente mi interessa poco, perché credo che quando uno va a votare per un Presidente del Consiglio soprattutto si preoccupa della politica interna, no? Ah. Beh, insomma, dipende. Soprattutto, detto. La zanzara è quell'odioso insetto che non... Cari ascoltatori della Zanzara, sapete come Guido Crosetto, uno dei candidati, uno degli 10, perché 10. Oggi Alessandra Mussolini ha rinunciato, sapete come Guido Crosetto, uno dei miei preferiti, devo dire la verità, chiama Samorì, l'avvocato di Modena, il Berlusconi di Modena? Sentite. Volpe Pasini, che uno pensa sarà un soprano, no? Era un opinion leader che poi è scomparso. No, e appoggia Samorì. Andiamo bene. Allora, fatta, via. Ciocco. Cocorì, caro David, Cocorì. Ma queste primarie del PDL, questo affollamento, cosa ti sembra? Una buffonata, una farsa o una cosa seria? Beh, perché lei dimmelo fa sinteticamente. Perché lei fa questa domanda retorica? Dimmelo sinteticamente. Signor Cruciani, ma è evidentemente una buffonata pazzesca. Perché il Dante causa, perché il Dante, cioè il signor Berlusconi, non le vuole fare. Ma è ovvio. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Raggiunto un accordo per la tregua tra Israele e Hamas, l'annuncio tra poco al Cairo, in vigore dalla mezzanotte, un bilancio di 130 morti. Ci sarebbero altri indagati per il sequestro anomalo del tesoriere di Berlusconi, si indaga sui conti in Svizzera, Spinelli smentisce trattativa e riscatto. Aumentano i candidati alle primarie del PDL, ma anche le polemiche, la Mussolini parla di resa dei conti, Samorini circo Barno, Frattini ospite del TG3. La visita di Monti nei paesi del Golfo, abbiamo spento l'incendio ed evitato il disastro totale, ora bisogna chiudere l'accordo sulla produttività. Arriva il redditest per non sbagliare con il fisco, una famiglia su cinque non dichiara ma spende, pensioni sempre più povere, con la crisi tornano le colf italiane. In caso di condanna per diffamazione, depositato nel disegno di legge Sallusti, un emendamento salva direttori. Il carcere resta, ma solo per l'autore dell'articolo. Greenpeace all'attacco del mondo della moda, molti abiti contengono sostanze tossiche per la salute. Appello a governi e produttori. Zanzara! C'è una zanzara tigre! Ma scusa, sbaglio, sono gli stessi candidati o ex candidati come la Mussolini alle primarie del PDL, sì, che dicono, sì, che è una farsa, che sputano sulla loro sessicagna e dice ma tanto è tutta una farsa. Cosa pazzesca. Samorì, vogliamo sentire qualcosa di Samorì? No, abbiamo già sentito. No, Samorì no, ma diciamo qualcosa al signor Sallusti invece. Sallusti. No, ma no, ma basta con Sallusti, Alfano. Perché? Quello che vincerà queste finte primarie. Allora. Saranno le primarie delle idee. Chi l'ha detto questo? Non la sfida delle vanità. Chi l'ha detto questo? Ma chi l'ha detto? Alfano. Ma chi è? È il segretario del PDL. Ah, no, scusa, non mi ricordo. Però io voglio dire una cosa su Alfano. Cioè, io dico una semplicissima cosa. Ma si può credere a primarie organizzate in 448 o no? Di cui ancora, sulle quali ancora non c'è una data, e con Berlusconi che evidentemente non le vuole fare, si può credere a queste primarie, sì o no? E comunque io credo che le primarie possano anche essere una sfida delle vanità. Cioè le primarie si candidano anche persone che vogliono semplicemente mostrarsi. Qual è il problema? Quello che mi pare evidente è che c'è una bella gara che si profila, e sarà una gara sulle idee e non sarà una fiera delle vanità. Mussolini sulla lavanderia. Sentiamo. Onorevole Mussolini, lei si è ritirata dalla corsa del PDL. Sì, dalla lavanderia politica, certamente, perché le primarie sono su temi specifici per dare la possibilità. E poi anche qui non si capisce dalla lavanderia politica che cosa intende, cioè dal fatto di lavare i. Di lavare in casa, che cosa? Primaria è come una guerra tra lavandaie. Sembra cosa si dire che qua? I panni sporchi si lavano in casa oppure resa dei conti, ma tra chi? Perché io non vedo idee contrastanti. Qualcuno ci vuole dire se vorrà ancora candidare il signor Cosentino o no? Il signor Alfano vorrà dirci qualcosa su Cosentino rinviato a giudizio per corruzione e riempiego di capitali illeciti o no? Il partito degli onesti, caro Cosentino, a che punto è? Question mark, cioè punto di domanda. Vabbè, tu sei fissato. Fissato, sì. Comunque. No, io sono in ansia, sai. Grazie per chi? A Daniele Sensi. Per Sallusti sono. Grazie a Daniele Sensi. Se ti arrabbia, però Sallusti. Grazie a Daniele Sensi, siamo riusciti a ottenere questo meraviglioso pezzo di Radio Padania. Oddio. Un conduttore di cui ancora ignoro il nome. Ma sarà il solito, come si chiama? No, non è il solito. Se la prende con un ascoltatore, Dani, non si capisce bene se è maschio o femmina. Sentite in che modo. Vedo Dani da Udine. Prima di tutto non ho capito se uomo o donna. Dani, sei uomo, sei donna. Dani, in questo momento io sto penetrando all'interno dell'abitacolo della tua macchina. Questa è Radio Padania, non è Padre Amort che cerca di scacciare il male. Radio Padania. Ma Maroni ascolta Radio Padania o no? E la Lega 2.0, stai zitto. Ancora questo conduttore, forse è Pellegrin. Aspetta un attimo, senti ancora. Dani da Udine, mandi a te. Tu ci dai degli ignoranti. Chi vota Lega è anziano ed è ignorante. Per te la colpa di questo paese che va male è perché non siamo uniti, Dani. Allora, questo è impazzito completamente. Radio Padania. È totalmente no, ma fai andato. Bene, ti conviene ripeto, questa è Radio Padania, quella che avete ascoltato, cari amici. Fatemi un'idea voi. Fate voi. Fate voi. Dani. Dani. Tu sei uno di quelli. Tu sei una di quelle. E non l'ho capito se sei uomo o donna, scusami, non si capisce. Tu sei uno di quelli che vota. Poveri pescatori sventurati. Maroni, Maroni, dove sei, Bobo? Intervieni, questa è la tua radio. Questa è la tua radio. Alfredo da Milano, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Dica. Volevo spezzare una lancia e difendere l'indifendibile Odi Freddi, che avete un a po' che proposito, caro, caro Alfredo, a che proposito? Mi no, volevo dire che da un lato era un titolo in un blog, quindi come se fosse un titolo di un articolo, e chissà che già i titoli esaltano un po' troppo il No, guardi che qui non c'è nulla. Non so, l'Italia come la Grecia. No. Qualche giornale può scrivere, è vero che è come la Grecia? No, però no, caro Alfredo, qui non c'è nulla di esagerato. Odi Freddi ha scritto ed è convinto di quello che ha scritto, che Israele sta compiendo in questo istante a Gaza, nel passato, anzi perché ha fatto i calcoli sul passato, gli stessi crimini che commisero i nazisti con le rappresaglie, anzi dieci volte peggio allora se non l'ha letto che cazzo dice? Premetto che non ho letto il testo, però da un punto di vista ha ottenuto un risultato perché si parla dell'argomento e magari non sarebbe parlato così tanto teoria una trasmissione come la zanzara che non si occupa molto di esteri e ma no, ma noi proprio non ce ne esteri, qui è il capitolo follia, non è esteri, c'è il capitolo cure psichiatriche, un altro discorso. Poi, però dal punto di vista tecnico probabilmente lui ci riferiva non al disegno di sterminio degli ebrei da parte dei nazisti, che ovviamente non penso che si riferisse a questo perché non è paragonabile con l'azione che sta portando avanti Israele adesso. Sì. Però dal punto di vista tecnico, come approccio di rappresaglia quando succede un fatto, nei numeri c'è, poi noi possiamo dire è poco opportuno e diplomaticamente scomodo. No, guardi, uno può criticare qualsiasi cosa, le iniziative militari, eccetera, eccetera. Quello perché che non è accettabile... non è corretto. Ma scusi Alfredo, ma non mi interessa a me fare un paragone con i numeri, a me non mi interessa fare un paragone sui morti causati dai nazisti a Via Rasella, non so dove, le rappresaglie, perché è il paragone che non tiene, è proprio l'accostamento che non esiste. Poi se a lei piace così, che cosa vuole che le dica? Marco da Milano, buonasera, che non è Marco da Milano dell'Espresso, è un ascoltatore che se no, perché tu avresti detto subito chi è Marco, bene, da Milano. Marco da Milano dell'Espresso, sì. Marco, dica. Buonasera. Sì, abbassi la maledetta radio che si trova di fronte, anzi la benedetta radio. No, la radio è spenta, mi sentite? Sì, la sento. Ma cos'ha il mio telefono cellulare? Quale ritorno ha? Solo di Freddi. Se certi atteggiamenti di certa sinistra italiana cambierebbero se sapessero che la storia, lo Stato di Israele è nato col contributo fondamentale, determinante dell'Unione Sovietica di Giuseppe Stalin. Sì, però qui non stiamo a fare la storia dello Stato di Israele, altrimenti chiudiamo la radio e andiamo a casa. Il punto è Odi Freddi è quello che ha detto, il paragone Israele-nazisti. Poi chiudiamo questa vicenda perché non ne voglio mai più parlare. Allora? Fanno perché Israele è alleato degli Stati Uniti e sono ancora fermi a precaduto del muro di Berlino. Benissimo, grazie Marco. Fermi tutti. Che dai, dai una piccola avvertenza, non è così grave questa volta, è una piccola avvertenza a coloro che si mettono in macchina in questo momento, che sono già in macchina e hanno magari dei bambini in età under 18. Amici della Zanzara, che siete in macchina e all'ascolto e siete sul grande raccordo anulare o su una pericolosissima tangenziale, prendete il vostro bambino minore che è legato solitamente sulla seggiola, fermatevi, accostatevi con grande prudenza, tirate fuori il bambino dalla macchina, appoggiate il seggiolino sopra il tetto, risalite velocemente in macchina, subito alla quarta, 220 all'ora, musica a tutto, musica, Zanzara a tutto volume e via senza problemi né preoccupazioni, telefono azzurro. Ma tu lo sai che un ascoltatore ha mandato una foto con la sua macchina con il seggiolino per i bambini e qualcuno sopra. Si è anche lamentato dicendo che istighiamo la violenza, capito? Ah, ho detto infatti di non legare il bambino, cioè vorrei precisarvi. Non voglio più mangiare pane gulag. E sentiamo Rondolino contro Sansa. Allora spieghiamo, Rondolino, la maggior parte di voi che siete all'ascolto non sa di cosa stiamo parlando. Intanto è il marito della Fabrizio signora Ercolani. Rondolino, vabbè, questa è una delle cose che non c'entrano assolutamente nulla. Rondolino, ex assistente di Massimo D'Alema, ora dopo varie peripezie appoggia, anzi consiglia per le primarie, consulente per le primarie di Daniela Santanchè. Vabbè, insomma, un bel passaggio, editorialista, no? Del giornale, perché è un uomo, vabbè, intelligente, sì, fa le sue per cose. Me intelligentissimo, numero uno. Ferruccio Sansa, giornalista del Fatto Quotidiano. Sono l'organo di stampa di Beppe Grillo. Sono i grillini. Rondolino dice che siede l'organo del Movimento 5 Stelle. Un piccolo dittatoruccolo partitocrate. Ma Rondolino, devo dire, Rondolino non credo che abbia grande autorità per poter autorevolezza, forse anche per fare questi appunti. E tu invece uno che è passato dal centro-sinistra alla Santanchè, credo che forse potrebbe risparmiarsi queste battute di spirito. La tua biografia è talmente insignificante che neppure la conosco, Sansa. Beh, siamo al top qui, La tua biografia è talmente insignificante. Almeno io sono stato uno degli spin doctor di D'Alema in quella che fu definita da Rossi, che cosa? La Merchant Bank, certo. L'unica Merchant Bank che non parla neppure inglese. Me ne vado, vattene fuori dai coglioni. Finisce così. Forse non era troppo da mandare fuori i bambini, in realtà, Anche i bambini potevano sopportare questa cosa. Sì, una parolaccia ormai sdoganata. Ribadisco che Rondolino non è la persona giusta, penso, per dire cos'è obiettivo nel giornalismo. Uno che è passato dal centro-sinistra alla Santanchè. Oh, Gesù santo, dal centro-sinistra, tu da dove sei passato? Allora, scusate, proviamo a dire al di là di cosa stiamo parlando. Calmiamoci, sono le 8:10, stiamo perdendo minuti di discussione. Volevo parlare di tutt'altro, spero. Esatto. E allora provaci se riesci a mettere due parole in croce. Provaci. Allora, fai io me ne vado, sforzo. Guardate, perché non ne posso più. Però Rondolino, posso dire che il tono è indietro. Ma non esiste al mondo che lui mi dice che non sono autorevole perché lavora per Daniela Santanchè. Infatti, secondo me sta sbagliando anche Ma di che stiamo parlando? Calma, ma veramente? Calma. Ma vattene, Sansa. Per favore, lo dico io chi parli qua dentro. Allora, scarpa di Cruscio. Sì, ce la voglia rossa e blu di Gorbazio. Siamo qui 800 24 00 24, non prima di avervi fatto ascoltare la signora Vento, Flavia Vento, la tua amica Flavia Vento. Senti cosa dice, perché? Ospite della Parodi, ospite in giro anche, dopo essere stato ospite più volte alla Zanzara, dove l'abbiamo sdoganata come editorialista. Flavia Vento, che magari chiamiamo anche stasera al posto di Galli della Loggia. Ti voglio fare un torto. Senti, gay in chiesa con vestito fanno ridere, senti. Io sono cresciuta, ho fatto scuole di suore, non voglio parlare di chiesa o non chiesa, però io rimango dell'idea che se due gay si amano, vivono insieme, sono felici, però di sposarsi in chiesa col vestito bianco, insomma, fa un po' ridere. Poverina. Volevo dire alla signora Vento che nessuno pensa a far sposare in chiesa i gay e tantomeno con poverina, i vestiti bianchi. Poverina la signora Vento. Vabbè, dai, poverina. Non ti accanire adesso. Poverina, non poverina. Piercarlo da Milano, buonasera. Pronto? Piercarlo, dica. Sì, buonasera. Dunque, volevo spezzare un'arancia in favore di... Non un'arancia, una lancia in favore di Sammy Varin, il conduttore di Radio Padania. Ah, com'è che si chiama il mitico? Sammy Varin. Sammy Varin, ma è bravissimo, numero uno assoluto. Che tra l'altro è proprio un mitico. Ma chi dice nulla? Chi dice nulla? Fa esattamente il cretino come lo fate lei e Parenzo. Beh, adesso. Adesso no. Però io direi che stiamo calmi su questo. Io nel dubbio, come dice il mio avvocato, nel dubbio querela. È una persona molto simpatica. Ma assolutamente. È una persona molto corretta solitamente. nelle conduzioni, sì, cerca sempre di non oltrepassare i limiti, sì, però chiaramente fa un po' lo stupido per rallentare un momentino. Questo va in onda alle 6 della mattina, no? Quindi deve svegliare, certo, i padani, tra virgolette, questo, i padani, e sì, per cui li tiene allegri anche con queste cose, e mi sembra una cosa più che normale, e mi sembra una conduzione più che soddisfacente, esattamente come la vostra, sì, che ci tenete allegri tranquillamente. Ma infatti chi dice nulla? La differenza è che questa, cioè che Radio Padania è la radio della Lega Nord, della Lega 2.0, signor Maroni. E la vostra, diciamo, è la radio di Confindustria, qual è la differenza? Beh, insomma, ci sono piccole differenze. Non ci sono piccole differenze. È una radio quella è una radio di partito, differenze. Ma guardi che non c'è nessun problema, mi stanno simpatici. Io sono andato spessissimo ospite da Matteo Salvini la mattina a Radio Padania, ma non c'è proprio nessun tipo di problema. Scherzavamo e ridevamo, mica volevamo dire che Maroni deve intervenire per cacciare uno che sta inseguendo un ascoltatore o che tratta l'ascoltatore in quel modo, figuriamoci. Grazie. Sergio da Napoli. Buonasera dottor Cruciani. Dica Sergio. Sì. Io volevo intervenire sulla questione delle primarie del PDL da dirigente di uno dei partiti minori, dirigente nazionale. Quale partito, scusi? Del nuovo PSI. Penso onestamente che sia una buffonata. Del nuovo PSI, che cos'è il nuovo PSI? Il partito del presidente Caldoro. Ah, il partito di Caldoro. Pensavo che fosse scomparso. Ma Caldoro non è del PDL. Scomparsi per sua sfortuna. No, per mia sfortuna, perché di qualcun altro. No, perché. Ma Caldoro non è del PDL, scusa. Sì, ma però in quota nuovo PSI. Fondatore della PDL, signor Parenzo, lo dovrebbe sapere lei, no? Sì, ma tutte queste sigle, no, ogni tanto ci perdiamo. No, ma adesso passerò la serata su Studio il Caso, dunque, sì. Nuovo PSI. Poi ci sono gli altri socialisti, PSI, quelli, sì, adesso, la signora Craxi. C'è un po' di diatriba nel mondo socialista, però sì, ci siamo, sì, anche noi. Ma ne discute chiunque, infatti anche oggi nel treno Firenze-Milano, più di una persona mi ha fermato dicendo che succede nel nuovo PSI? Che succede? Beh, me l'hanno chiesto in tantissimi. Io... Allora, Sergio? No, io volevo esternare questa mia posizione. Che esternare questa sua posizione? E perché sarebbe una buffonata secondo lei? È una buffonata perché la politica, in particolare il PDL, oggi non riesce a dare il suo contributo, sì, politico, sì, e sta cercando con queste primarie di avere una visibilità. Questo è il motivo per cui lei, dirigente del nuovo PSI Campano, ci dice che sono una buffonata? Sì, questo è il motivo. E qual è il motivo? Non l'ho capito io, perché i candidati si vogliono mostrare. Se me lo fa spiegare, oggi PDL non riesce materialmente a fare politica nemmeno sul territorio, sì, e cerca di dare ai suoi elettori questa sensazione di politica con le primarie. Vabbè. In realtà è una politica virtuale. Una politica virtuale. Bene, grazie Sergio, dirigente del nuovo PSI. Michele dalla provincia di Roma. Michele? Pronto, sì. Salve, sì, ecco. Dica. Ok, allora intanto devo dire che siete molto simpatici. Sì. E mi diverto sempre con voi. A questa sera mi siete su un pochino di meno. Non la sento, Vincenzo da Roma, buonasera. Buonasera. Fastidioso, però, effettivamente, quando non si sente, è fastidioso. C'è sta gente con questi telefoni che non funzionano. Io proprio Vincenzo, non vada. Io non li sopporto. Buonasera, Vincenzo da Roma. Vada, dica pure. Volevo ringraziarla per l'intervento. Allora, mi ringrazi dopo, casomai, magari la mando a quel paese. Una pura formalità, lo sanno tutti, a Roma, dei vecchi e dei nuovi, che Alfano sarà il vincitore delle primarie nel PDL in ambito nazionale. Tutto il resto è solo una resa di conti. Mi chiedevo però se l'amico Alfano riuscirà a farsi dare quei quattrini che servono per fare la campagna elettorale, perché su questo è il punto essenziale su cui il dibattito gira intorno al PDL. Berlusconi toglierà i 200-300 milioni per fare una campagna elettorale e portare il PDL al 12, al 16, al 15%, tenendo presente che molti parlamentari all'interno del PDL busseranno, cioè i mandati di cattura, e qualcuno busseranno a casa per... Vabbè, Vincenzo, grazie. Riccardo da Ferrara. Pronto? Sì, Riccardo, dica. Ah, prego. Intanto vi ringrazio che mi avete dato la comunicazione. Io volevo semplicemente dire questo. Che vuole dire? sono vostro ascoltatore da 30 anni e mi dispiace farle delle critiche. Da quanti anni, spero, scusi? Da 30 anni, dice. Sì, io spero ero che, a 30 anni non esisteva. Spero questa. Che mi faccia finire le mie critiche, per cortesia. Ma lei può dire quello che vuole, ma... Certo, le volevo dire che lei è una persona molto arrogante, purtroppo, mi dispiace dirglielo, che lei non fa, stacca la linea molte volte e poi deride assolutamente anche le persone che chiamano. Che ma la tutto chiamano, vero, tutto vero. Se mi lascia parlare, ma è tutto vero. Lo dico perché lo dicono anche altre persone. Ma infatti, lo confermo me medesimo, lo conferma Cruciani medesimo. Posso parlare? Perché se posso parlare, io sono abituato che quando una persona parla... Un attimo solo però, signor Riccardo, perché abbiamo un ospite. Stia lì. Non si muova. Non scappo mica. Resti lì. È con noi Massimo Cacciari, buonasera. Che meraviglia, meno male. Buonasera. Come sta, professore? Alziamo un po' il livello, finalmente. Come sta? Buonasera. Tutto bene? Beh, insomma, abbastanza. Che succede? Ma no, sarà... Qualche linea di febbre, no? No. No, sarà deluso dal quadro. Va a votare le primarie domenica? No, ho già detto che non andrò a votare per la situazione che mi pare in cui almeno io mi trovo di non poter dare un voto consapevole sulla base di una valutazione attenta e approfondita dei diversi programmi. Cioè. Cioè, in che senso, scusi, no, non c'è nessuno che... Ci spieghi un po'. Non ho capito cosa pensano sull'essenziale, non ho capito come intendano formare, poiché appunto si vota non per un capo di partito, ma per un presidente del Consiglio. Non ho capito questo presidente del Consiglio eventuale con chi intenda formare il governo, come intenda affrontare con quali numeri, con quali calcoli i grandi problemi che il Paese... ha di fronte, eccetera, eccetera, quindi non è deluso. Cioè, scusate, no, ma non c'è deluso. Non va a votare, non partecipa alle prime, ma nemmeno se ci fosse un ballottaggio come tutti pensano tra Bersani e Renzi. Non va. Cioè, il nodo delle alleanze, cioè, è tutto confuso. Il PD non è più il suo partito, e questa è la realtà. Come? Il PD non è più il suo partito, professore, questa è la realtà. No, io non sono più iscritto al PD da 3 anni. Quindi non è questione del partito, sarei andato molto volentieri a sostenere, visto che il Partito Democratico con ogni probabilità sarà il partito che avrà il partito maggiore e quindi avrà sicuramente, penso, a meno di catastrofi, la responsabilità di almeno in prima battuta di tentare di formare il governo. Mi interessava sapere, ma ripeto, attraverso calcoli, non promesse, non grida. Sì. Ma attraverso calcoli, numeri, con chi si intendeva, come e dove intendeva ottenere, trovare, scoprire le risorse per un po' di sviluppo, occupazione, lavoro, eccetera, eccetera. No? Non c'è nulla in questo. A questo punto l'unico che dà i numeri, nel senso buono del termine, è ancora Monti. È ancora Monti. Neanche Tabacci ha detto alcunché. È un finto candidato Tabacci. E poi Tabacci cosa c'entra col PD? Tabacci non c'entra assolutamente nulla col PD, la sua storia non c'entra nulla col PD, non ha fatto nulla perché il PD si formasse, candidato. Quindi ritengo veramente che la storia di Tabacci sia poco seria. E che appunto che si candida a fare Tabacci, così per protagonismo? No, per... ma poi è una persona che è stimabilissima. Sì, certamente fa troppe cose, ma che nulla ha fatto perché il PD nascesse. Sì. Che nulla ha fatto durante questi primi difficilissimi imperi anni del PD. Che se n'era andato comunque con Rutelli. Poi sì, Rutelli è un altro. Perché, non si capisce, insomma. Poi fa l'assessore a Milano, il deputato. Poi fa l'assessore a Milano dopo che naturalmente non aveva appoggiato né Pisapia né Boeri. Chiaro. Dopo che aveva appoggiato un altro candidato, quindi mi pare tutto così, insomma, un po' uno zibaldone. E la signora Puppato, lei l'ha vista? Un vecchio politichese senza alcun costrutto. E la signora Puppato nostra conterranea. È una stimabilissima signora, brava, ha fatto benissimo il sindaco, ha vinto in una condizione impossibile durante il dominio della Lega a Montebelluna, è una persona brava come amministratrice, ma ma non ha alcuna credibilità. Cioè, quando vai a votare, non vai a votare per allegria o per sentimento di una persona, ma perché credi che quella persona sia poi in grado di risolvere i problemi, in questo caso nazionali. E allora, cos'è? E non di Montebelluno. È una candidatura per togliere, cioè, di queste qua che. Per togliere qualche se si doveva candidare una donna le cosiddette donne del Partito Democratico avrebbero dovuto trovare un accordo tra di loro e concentrare la loro forza che su una candidatura più credibile di quella là. Che fosse davvero credibile per il governo del paese. Forse c'erano anche queste candidature possibili, no? Non mi dica, professore, che è stato stregato da Montezemolo, anche lei, stregato da Luca Cordero. No, guardi, io è nota la cosa. Io due anni e mezzo fa, in epoca non sospetta, con Berlusconi sulla crisi dell'onda, pronosticai comunque la fine della Repubblica di questo regime e speravo che Luca di Montezemolo fosse una persona in grado di costruire allora una ipotesi di alternativa. Beh, adesso ci siamo quasi. C'è. Ora è Prezzemolo possibile sul piatto di Monti, no? È chiaro, non può avere altra funzione che quella di Prezzemolo di Monti a sostegno della candidatura di Monti per il bici. Ecco, però Monti pure sa da decidere, professore. Monti pure si deve decidere, sennò sembra un altro Montezemolo, un altro Sortantemme. Lo so, ma cioè, Montezemolo erano anni che predicava e non faceva. Sì. E ora non si capisce nemmeno ora se poi questo suo movimento scenderà davvero, scenderà in campo. No, lui, il movimento partito. Sì, lui no, dice. Beh, vabbè, insomma, ma comunque, insomma, il problema del cosiddetto centro è il problema di Monti. Perché se Monti si candida esplicitamente a testa di una coalizione di forze politiche, di movimenti di centro, allora può sparigliare tutto e giungere al 20%, anche superarlo. Sì. Se Monti non è tutto non più si difficile, candida, è tutto più difficile. Il centro insieme appassionatamente arriva al 10%, ma è grasso che cola. Beh, per cui anche lei dice: Monti, deciditi, no? Deciditi. Ma cioè, l'ho scritto sull'Espresso questa settimana, appunto, ma è così, una letterina un però po' rischia di essere un altro Sortantenne pure lui. Una letterina un po' scherzosa perché penso che poi Monti alla fine non si candiderà, anche per ragioni proprio di carattere. Monti non è un politico. Ma tanto è senatore a vita, non è uno che fa battaglia. Che gli frega, poi non è un politico. Non gli piace la battaglia. Non ha proprio vocazione politica. Se lo immagina in un confronto a porta con la Sant'Anchè? No, ma me lo immaginerei benissimo, perché quello stile lì... È vincente, dice lei, è vincente. Sarebbe molto attrattivo, non c'è dubbio alcuno, rispetto alla scialtroneria, ai comizi, eccetera, eccetera. La gente ha le palle piene dei comizi, dei comizianti, ma ne sono straconvinto di questo. Quindi sono straconvinto che Monti avrebbe un grande... Ecco, lei messo di fronte a una scelta secca, Bersani-Monti, lei chi preferirebbe? Monti, naturalmente. Io preferirei Monti con un governo dentro cui ci fossero Bersani e Casini. E Casini. Ah, anche Casini. Bendola come lo consideriamo, fuori, naturalmente. Monti con un governo di coalizione, Con Bendola fuori. I momenti di crisi hanno fatto in Germania decine di volte. E Bendola? E Bendola? Niente. Dove lo mettiamo? No, e Bendola se ci sta, perché no? Bendola ha fatto per 10 anni il governatore della Puglia e si è barcamenato in condizioni difficilissime. Vendola è una persona che ha esperienza di governo e sicuramente potrebbe dare una mano anche lui. Ma, non c'è dubbio. Scusi un attimo, Cacciari, se si dovesse presentare una lista con Montezemolo o meno candidato, anzi sicuramente no, però insomma che nasce da Italia Futura, lei la voterebbe al posto del Partito Democratico questa lista? Bisogna vedere quali sono i candidati, bisogna vedere in quale coalizione si colloca, con chi. Beh, per il momento da soli. Ripeto, per il momento da soli. A quel punto non sarebbe, se ci fosse Monti candidato, a quel punto non sarebbe questione di scelte personali tanto, perché veda, con Monti candidato il centro scatta automaticamente intorno al 20%. E quindi diventerebbe obbligatoria la prospettiva di un governo di coalizione, che è quello che io auspico. E Renzi, e come la mettiamo? Votare una coalizione Monti, a quel punto personalmente mi sarebbe del tutto indifferente. E con Renzi come la mettiamo? Che fine fa Renzi? Renzi se vince il Partito Democratico sicuramente avrà il suo posto al sole, non c'è dubbio alcuno, perché non è più l'epoca in cui non si fanno prigionieri. Il Partito Democratico è un partito più quello. Ma è impossibile che vince. Sposetti ci ha detto è come se partorisse un uomo. Cioè una, è possibile che vinca Renzi? Quasi non impossibile. Lo credo, ma perché no? Bisogna vedere quanti vanno a votare e chi va a votare. Cioè, è possibilissimo che come Grillo sta spopolando così anche all'interno dell'area del centro-sinistra, nell'area del Partito Democratico, cresca un movimento di ribellione, di protesta nei confronti dell'antica. Senta, professore, una sola... Che porta Renzi anche a vincere. Grazie. Io penso che finirà il primo turno con la vittoria di Bersani. Comunque. Grazie, professore, a presto. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Cari ascoltatori, che Dio ce lo conservi a lungo. Chi Sallusti dice? No, quel signore che ogni mattina conduce una trasmissione su Radio 24 alle ore 9. Non lo pigliare per il culo, però, perché così lo pigli in giro. Sembra che lo prendi in giro. No, fatto, io sono amicissimo del signor Giannino. Oscar Giannino. Sentite cosa ha detto. Ditemi voi se uno non si deve incazzare come una bestia. Bravo, Giannino. Dopo aver appreso queste notizie, che erano già lì sul piatto, ma lui ce le offre così a noi poveri ignoranti. Beh, adesso parli per lei. Il nostro ambasciatore a Berlino, dice Giannino, il nostro ambasciatore a Berlino guadagna il doppio della Merkel. Abbiamo 50 ambasciatori più degli Stati Uniti. No. 50 ambasciatori più degli Stati Uniti. Poi uno dice della politica, giustamente il tuo amico Davide Romano, che la gente non sa chi è, però io... Che è qui in studio, peraltro. Davide Romano. Che non è parente di Sergio Romano, però. Mi suggerisce una cosa, caro Parezzo. Ma perché citi Romano così? No, perché è giusto dare a Cesare quel che... Lei, dica almeno buongiorno, solo. Allora, signor Davide Romano mi ha detto, e poi parlano dei politici, che in realtà dopo qualche anno se ne vanno, in realtà non è così, non se ne vanno, ma comunque insomma sono sostituibili, invece i funzionari pubblici come gli ambasciatori, l'ambasciatore a Berlino, il nostro ambasciatore a Berlino, non quello che c'è adesso, anche quello prima evidentemente, no? Non è che ce l'aveva con l'ambasciatore attualmente a Berlino, con tutti gli ambasciatori, guadagna il doppio della Merkel, il doppio, per sempre! Gli ambasciatori sono come diamanti. Cioè, Romano? Sono per sempre, un ambasciatore per sempre. Grande cameo di Romano alla Zanzara. Andrea da Mantova, buonasera. Chi se ne frega? Buonasera. Dica. Niente, volevo intervenire. No, niente. Uno che inizia già dicendo no, niente. Uno telefona, dice, dica, niente. Perché? Prenzo, guardi, ognuno parte come vuole, non credo che abbia bisogno. No, ma lei ha ragione, Andrea, però lei ha ragione. Lei ha ragione. Viene il sangue ai matti, viene il sangue al cervello. Ha ragione, come, questa volta lei ha ragione, Andrea. No, come... Prenzo, se vuole insegnare l'italiano a noi italiani, faccia un concorso per insegnante, non so che dire, Però vada avanti. Guardi, la situazione era solo questa. Praticamente volevo intervenire a difesa di Semivarin sulla sua trasmissione. Ma noi non lo vogliamo attaccare. Lo prendevamo in giro per quella intemerata che ha fatto con l'ascoltatore lì. Ma perché bisogna prendere le difese di... Non l'abbiamo attaccato, l'abbracciamo fortissimamente. Sì, cioè, veramente, si comporta nella stessa medesima maniera che avete voi di trattare i vostri ascoltatori. Non vedo che problema. Ma infatti non c'è problema. Infatti non c'è problema. Siete voi che vi inventate una cosa quando non esiste. Vede, allora avevo ragione a partire con un niente. Questo è giusto. Ambrogio da Lecco. Qui c'ha ragione lui. Bravo. Sani, buonasera. Buonasera, dica. Sì, salve, guardi, la ringrazio perché mi ha fornito, diciamo, un assist per la mia telefonata. Io telefonavo appunto perché sono aderente a Fermare il Declino, al movimento di Giannino, condivido in toto le sue opinioni, ma se mi permette avrei, diciamo, una piccola critica nei suoi confronti. Volevo chiederle il perché ieri sera ad Albertini non ha posto la domanda sul se non ha aderito. Io l'ho chiesto 40 volte già, cioè quante volte vuole che io glielo chieda. Lei una volta gli ho detto, lei in diretta qui, lei è del PDL, europarlamentare del PDL, come fa a dire che si vuole candidare al di fuori del PDL? Uno si dimette dal PDL, se ne va dal PDL e no, si candida come rappresentante della società civile, o cosa diavolo significa la società civile, io ancora non l'ho capito. Perché non ha chiesto se si candidasse a confermare il declino, dato che l'intenzione di Albertini adesso, movimento civico. Detto con tutto il rispetto, caro Ambrogio da Lecco, adesso non è che noi ogni giorno facciamo lo stato dell'arte dei rapporti tra Albertini e Giannino, detto con tutto il rispetto, ma insomma a lei interesserà. È solo una domanda, perché le ha chiesto PDL, le ha chiesto... Ho capito. Qualsiasi altro movimento, no, non vedo perché debba... Ma non lo so, non c'era tempo, non mi sono ricordato, qual è il problema? Oh, signora Mussolini, buonasera! Chi è? La Zanzara! Sono Cruciani, come sta? No, Karina! Come cara, no? Cara! Come no, no? No, no. Come va? Come stai? Mi dica subito una cosa, signora Mussolini, mi dica subito una cosa. Allora, ci diamo del tu, perché devi dare per noi lei? È un lutto, per noi questa notizia di oggi è un lutto pazzesco. Il suo abbandono, sì. No, è un lutto. Passerotto, guardate, non andare posso via. Posso dire una cosa? Dico solo questo, vi ripeto quello che ho detto oggi e quello che mi ha convinto a farle. Come ci ripeto? No, prima di tutto in 20, in 19, quindi questo, se qualcuno in mala fede sì, sta trasformando quelle che dovrebbero essere primarie, come ha fatto il PD parlando di te, sì, in ammucchiata per le paese, in una ammucchiata, resa dei conti anche un po' squallida. Ma chiamiamola anche ammucchiata, dai, che è più bello. No, io l'ho chiamata l'idea. Lavanderia politica. E com'è più allora bello fare ammucchiata? Questa cosa? No, fare lavanderia politica. Famoso mucchio. Prima di una campagna elettorale è fallimentare. Quindi. Però scusi, lei lo sapeva che si sarebbero candidati 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quelli che sono, cioè non è una novità. 20, no. No, 20 no, per adesso. 10. Ma non è tanto quanti, a parte quanti si candidano, ma quello che si dice... Perché c'è qualcuno che le sta trasformando, questo non può. Beh, ma è uno contro l'altro, è una battaglia, onorevole Mussolini, lei lo sa come funzionano queste cose, è una battaglia uno contro l'altro. No, che c'è? No, non contro. Ma chi le vuole sabotare? Partito, perché il partito è un partito che va sostenuto in questo momento. Ma chi è Berlusconi che le vuole affossare? Chi le vuole affossare queste primarie? No, sì, qualcuno. Qualcuno che chi? Vuole qualcuno o qualcuna che all'interno si candida e che sta cominciando a dire andiamo contro Alfano, andiamo contro la classe dirigente. Vabbè, questa è la Santanchè. No, avete sbagliato. La Meloni, che male perché c'è? Perché poi si improvvisano anti montiani dell'ultima ora. Ah, la Meloni, parla della Meloni. Sì, ma perché però, lei... Vabbè, detto questo, arrivederci. Però no, Mussolini, lei sa il detto, lei sa il detto qual è, no Mussolini, solo questo, sa il detto qual è? Sì, qual è? Il detto, cara Alessandra Mussolini, è chi si estrae dalla lotta... No, io sono contenta. Ogni tanto uno dice, cari, mi stiro dalla lavanderia. Però, i panni me li vado a lavare in casa, li lavassero gli altri fuori. Però scusi un attimo, la Meloni in realtà è sempre stata contro Monti. Certo. O no? Chi è il parere? Ma che dite? No, sì, per no, all'inizio ha appoggiato, ragazzi, Monti, no, sempre alla grande. No, non si può. È vero che l'unica all'ultimo momento, quando si sta in un ufficio politico, le cose si dicono all'interno. Non si può trasformare una cosa che già diventa veramente uno strumento masochista, terribile. Quindi speriamo che non si facciano le primarie. Addirittura. Ma gliel'ha detto? Ma certo, prima di tutto non c'è tempo. Queste sono le condizioni. Non ci stanno i soldi. Il PD, sentite, poi un'altra cosa. E che dicono? Le primarie le ha fatte una PD di coalizione, giusto? Sì. Ti giri e chi vedi? Beh. I miei colleghi di partito, che sono buoni e cari, ma sono colleghi perché partito, nessuno vuole stare con voi, non c'è coalizione. Ma siamo no, soli. Ma non c'entra. Questo no, Berlusconi aveva fatto anche un passo indietro e capire appunto che va dove si vince. Ma che le hanno detto la Russa, la Gaspari? Che le hanno detto la Russa, Gaspari? Che ha fatto bene? Che ha fatto ma bene? Non mi deve dire niente. No, ma così, come con me. Qualche telefonata, dice no, Alessandra, resisti, rimani. Guarda che non è da resistere. Ma io no, quando figo, ho visto contento già come buttava, ho capito subito, non è che uno... Via. Scusi, però la Meloni... Dai, vi dovrete divertire con qualcun altro, ma io anche da fuori, da battitore libero, vi farò lo so, però scusi, la Meloni ha consenso. Basta, sul territorio. Non dico più niente, no, sono la molto contenta. La Meloni ha consenso sul territorio. No, ma io non sosteniamo nessuno. Ma magari si candida anche il ragioniere Spinelli. Io sto dicendo che non si devono trasformare le primarie in una altra cosa che fa comodo a qualcuno o barra qualcuna. Non si può fare, perché già siamo in difficoltà. Se ci mettiamo pure le lavandaie. Ma chi è la lavandaia? Chi è la lavandaia? La Meloni? No, sto dicendo i panni. Ah, i panni. Ah. Ma come la giudichi? In una parola, la Meloni. La Meloni, in una parola, come buona la giudica? Cena. A cena alle 8, non ci crede nessuno. Mi dia un giudizio. Io sono anche un po' padana. Mi dia un giudizio sulla Meloni, lapidario. No, non do un giudizio proprio su nessuno. Do un giudizio su primarie che non devono essere fatte in questo modo, con questi contenuti. Ma uno contro l'altro, è normale. Uno no, contro non l'altro. È così. Deve essere fatto per l'Italia, non l'uno contro l'altro. L'uno contro ma le primarie in America si scambiano. Ma in America si scannano, come no? Come no? No, Obama e la Clinton se ne sono detti di tutti i colori. Obama e la Clinton. Ho capito. Ma si parlava sempre di tematiche. Qui c'è la Clinton Meloni e Obama Alfano, no? Sì, va bene, cari. Un abbraccio, a presto. Saluti. Ciao. Saluti. Ciao. Saluti. Abbiamo sentito, cari ascoltatori, un Alessandra Mussolini, scusate ancora per questa voce, un po' trans. Sì, lei li difende, infatti, ma lei in linea con la linea editoriale del programma, lei difende. Avete sentito Alessandra Mussolini scatenata contro Giorgia Meloni, eh? Questo sostanzialmente è venuto fuori, no? Beh, sì, è chiaro che sono due candidature rivali che pescano, come dice giustamente Riccardo Poli, fine analista politico, dalla stessa area, è chiaro. Mauro da Milano. Ma del caso Sallusti, non vuol parlare di Sallusti oggi. Mauro da Milano. Buonasera. Dica. Buonasera, un caro saluto all'anarchico Cruciani, al vetero comunista Parenzo. Volevo commentare con voi questa pletora di candidati, appunto avete appena parlato con la Mussolini, questa pletora di candidati alle primarie, alle primarie, poi si faranno le primarie, alle potenziali primarie del PDL. Perché mi piacerebbe leggere questi 11 programmi, che saranno 12, 13 alla fine, così diversi, che segnano le 50 sfumature del PDL, così diverse, queste posizioni politiche, questa ampia gamma di posizioni politiche all'interno del centrodestra, di queste persone, di questi carnea disconosciuti, oppure di questi trombati. Però scusi un attimo, Mauro. In questo momento l'affollarsi di queste candidature segnala semplicemente la difficoltà del PDL. Però è normale che quando un partito indice per la prima volta delle primarie, ci sono una serie di signori che cercano anche visibilità. Vogliono pescare dei voti, vogliono contare e si candidano. Qual è il problema? Lei ha ragione, ma un minimo di decenza, di umiltà nel dire: ma io che posizione politica così differente dagli altri candidati, quale novità voglio portare? Qui abbiamo. Ma guardi che anche in America, quando ci si candida alle primarie, ci sono 3, 4, 5 candidati. Ma parliamo di governatori di stati, parliamo di gente che ha fatto il segretario di Stato, non di gente che ha fatto o il sindaco, uno è il sindaco. Ma non ci sono solo quelli. Quando iniziano le primarie in America c'è un sacco di gente, non ci sono solamente un governatore, un segretario di Stato, eccetera. C'è un sacco di gente. Poi la situazione, come dire, perché sì, poi però, si fanno Stato per Stato, la situazione una porta una scrematura. Direttamente dalle primarie nazionali, un minimo, dico io, di coscienza di quello che si va a fare. Vabbè, ma qual è il problema? Scusi, se uno politica. Si sente forte, qual è il punto? No, perché sono curioso. No, io non dico che. Guardi, non secondo bene, me molti si candidano per farle fallire. Curioso di leggere i loro programmi per capire queste differenze, questa voglia di dire qualcosa di diverso dagli altri. Sono curioso di capire, perché un pazzo come Sgarbi probabilmente si inventerà qualcosa di diverso dagli altri, perché sì. È uno talmente matto che si inventerà qualcosa di diverso. La Meloni con il suo giovanilismo, col suo essere un po' di destra, magari si inventerà, ma gli altri voglio capire cosa si inventeranno di così originale, di diverso, di così importante, quali tipi di bacini si riferiranno per far capire che alle spalle di una forza politica, una capacità di convincimento, una relazione sul territorio, perché veramente mi stupisce, voglio capire cosa diranno, con che coraggio si presenteranno, perché già in quelle del PD, del PD c'è uno come Tabacci che sa già che perderà, o la signora Puppato, mi sembra che si chiami, poi se sbaglio il nome chiedo scusa, che sa già che perderanno, non hanno nessuna possibilità. Va bene le candidature di bandiera, ma queste cose si fanno a un altro livello. Quando c'è una candidatura per rappresentare il paese, all'interno del paese, anche a livello internazionale, se non si ha un minimo di possibilità, fare candidature in bandiera solo così per rappresentare una posizione non ha nessun senso, va solo a svilire la battaglia. Gli altri tre, secondo me, nel PD hanno posizioni diverse e hanno, delle, hanno qualcosa da dire. Grazie. Well, now, little mosquito, there must be some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. So I'm nature's mosquito. And that means I'm gonna go bite, a bite, a bite, whitey, white, sir. Enrico dalla provincia di Parma. Enrico, ciao, buonasera. Dica. Lei non è simpatico, però questo non conta. Del suo amico manco voglio parlare. Però siete due veramente perfetti per fare il gioco dell'antipolitica che c'è in questo momento in Italia. Sì. State distruggendo tutti. Noi. Voi due siamo distruggendo tutti, e a me fa molto piacere, però attenzione, perché non aiutate sicuramente chi, secondo me, magari ci è rimasto ancora forse in modo per costruire qualcosa di positivo. Per esempio? Scusi, non ho sentito. Per esempio? Per esempio, il fatto che state demonizzando dal nuovo che può essere Renzi a ma chi lo sta demonizzando? Cruciani ha detto pure che lo vota. Ma lei dove vive? No, voi, cosa ascolta? Cosa... Così, ma lo dite dopo aver intervistato tutti gli altri suoi colleghi di partito che adesso allora? Hanno smarazzato. Quindi no, ma dico, fate benissimo continuare così. Però, ma scusi, lei da quanto tempo non va dall'ottorino alla ringoiatra? Perché secondo me ascolta la radio a intermittenza lei. Però per carità. Io parlo, se non sbaglio, ho chiesto di parlare con Cruciani, non so sì, no, sto parlando. E invece sta parlando con me, lo sa, non è che fa certo, il furbettino con me. Ecco, quindi le chiedo, così come lo sta facendo lei, quanto tempo è che lei non va a fare una visita dall'ottorino laringoiatra, che è quello che si occupa di laringoiatroscopi, orecchie, naso, bocca? Dallo stesso tempo che non va lei, perché io ho detto soltanto non che ascolta, voi state demonizzando Renzi. Per me, secondo me, anche positivamente, tutto quello che è l'ambiente politico e i politici di oggi, quindi continuate pure così, siete perfetti, anche se vi sopporto poco, soprattutto l'ultima persona con cui ho parlato. Grazie a lei, non ho capito nulla di questo intervento. Sandra da Frosinone, buonasera. Sì, buonasera. Io vorrei collegarmi a quello che diceva il dirigente del nuovo PSI. Sì, il dirigente del nuovo PSI, Sandra, non mi ricordi queste cose? Appunto, lo sapevo, la tristezza. Che diceva questa cosa. Il quale ha affermato che la PDL non riesce a fare politica nemmeno sul territorio. Sì. Allora, intanto la prima domanda è, se non la riesce a fare localmente, mi domando che cosa riuscirà a fare a livello nazionale. Se non è riuscito a farlo, diciamo, da una posizione di forza, figuriamoci adesso che insomma la PDL è abbastanza frantumata. Però io più in generale, cioè, chiederei a tutti i candidati delle primarie un attimo solo chi è il suo telefono, che è quella? Permessi va nella città dolente, permessi. IM, servizi di segreteria telefonica. Allora Sandra, che diceva? Sì, ci sono? Dove siamo rimasti? Non lo so, guardi. Se non lo sa lei. Allora, dicevo, che cosa significa fare politica? Io vorrei che i candidati delle primarie, sia del centro-sinistra che del centro-destra, lo spiegassero ai cittadini e soprattutto spiegassero quali sono le loro idee per risolvere problemi tipo sanità, rifiuti, evasione fiscale, perché i cittadini, va bene la visibilità di tutti i candidati, va bene la strategia comunicativa, va bene la contrapposizione tra parti, però sul concreto noi perché dobbiamo scegliere l'uno piuttosto che l'altro? Tutto qua. Va bene, grazie. Saverio da Foggia, buonasera. Sì, buonasera. Senti, io volevo dirvi una cosa a te, a Parenzo. A intervistare i cacciari, le Mussolini. Ma cosa ci hanno da dire questi? Ci hanno portato dove ci hanno portato? No, veramente Cacciari non ci ha portato nessuna parte. È stato sindaco, è stato... Poi devo sentir dire che Grillo non è adatto. Ma guardiamo i fatti. Ma che fa? Mangia intanto mentre parla? No, io non sto mangiando. Sì, stava mangiando qualcosa. È segno di grandissima maleducazione. No, sentimi qua. Senta lei qui, che stava masticando qualcosa. C'aveva il bolo alimentare in bocca, l'ho sentito perfettamente. Guardiamo i fatti, no, io non sto mangiando. Sì, c'aveva il bolo alimentare, prego. Senta, comunque, guardiamo i fatti. I nostri politici sono decenni, devono ridurre i costi della politica e aumentano sempre. L'unico che ce li ha ridotti è stato Grillo. Allora io dico, noi cittadini normali come me, se volessimo fare normale, i nostri interessi, a chi dovremmo votare? A quelli che vanno in Parlamento e i soldi dicono che non se li devono prendere, no, a questi qua, tutti gli altri che stanno lì sempre per arrappare, ne togliamo un po' ma ne mettiamo un altro poco. Ma perché queste cose da voi non le sento mai? Mai. Perché questa è l'informazione. Io vado solo ai fatti. Grillo va in Parlamento, va in Regione e si piglia la metà, meno della metà. I soldi della campagna elettorale non se li prende. Questi sono i fatti. Poi chi l'ha detto che Grillo non sarebbe in grado di governare? Cacciari. E chi l'ha detto? No, ma sento tutti che solo Monti. Senza di Monti in questo paese siamo persi. E questo dice Cacciari? No, ma io le sento, io la sento sempre Radio 24. Spesso sento anche lei, ma sì, non è, quello è adatto, quell'altro non è adatto. Per me, anche l'ultimo amministratore di condominio può essere meglio dei nostri politici. Sono d'accordo con lei. Perché sappia far di conto. Perché i nostri, secondo me, il conto non lo sanno fare. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente. E con l'assessore alla cultura, Fabiano. Assessore, mi offende, no, per cui chiamami Franco e sarò franco. Non faccio politiche e non voglio assolutamente avere a che fare con politici, quindi ho bisogno di avere un per le strade di Pechino. Infatti fra poco non avrai, caro Battiato, nulla a che fare con i politici, perché ciao. Dopo 15 giorni sembra che non vuoi fare nemmeno l'assessore al turismo. Ma perché una persona come Battiato non si dedica ai suoi tour? Ma infatti fa alla cultura. Ma perché ce l'hai così con Battiato? Ma che t'ha fatto che non prende una lira? Non prenderà una lira. A me non me ne frega niente. Mette che non la un sua euro. Esperienza. Ma non me ne frega niente. Di organizzatore di eventi e spettacoli al servizio della sua terra. Se ti piace un assessore, e stai che non qua. Vuole fare un assessore. Non hai detto una parola sul caso del signor Toti Lombardo. No, non ho detto una parola. Ma no, forse qualcosa hai detto vero, però mi stava bene retoricamente parlando. Non hai detto una parola su Toti Lombardo. E stiamo qui a fare con il povero, con il più grande poeta esistente attualmente, sì. Che con generosità non chiede una lira a una regione squassata, distrutta, una regione scassata. Il giornale di Sicilia oggi, leggevo poco fa che il giornale di Sicilia titolava: la regione non sa cosa fanno i suoi dipendenti, il personale ha avviato un censimento, rispondono solo in 9 dipartimenti su 28. Di cosa parliamo? Ma questo non c'entra. Se uno viene chiamato a fare l'assessore, o fa l'assessore oppure fa i tour dei suoi concerti. Marco da Pisa. Sì, salve, buonasera a tutti. Senta, io Cruciani volevo dire questo, che ora cambio argomento su quello che parlavate, che il nostro problema dell'Italia non è Marchionne, purtroppo, il nostro problema è Monti e questa classe politica. Ma che vuol dire? Non è Marchionne, non è Marchionne, non è... No, scusi, lei non ha detto, aspetti un attimo, dice non è Marchionne, ma Monti è la classe politica e il Presidente della Repubblica. Non ho capito, lei passa dalla Marchionne. Il Presidente della Repubblica, perché ci hanno fatto, diciamo, inculcare nella mente che tutto dobbiamo fare come ci dice l'Europa. Però il problema è che dobbiamo fare quello che ci dice l'Europa, quando c'è da pagare. Quando c'è invece da liberalizzare, da fare le cose, diciamo, per far risparmiare le famiglie italiane, bisogna allora andare con le leggi italiane. Faccio un esempio molto banale. Le assicurazioni negli altri paesi costano il 50% in meno, però noi non ci possiamo assicurare in Francia, ma dobbiamo farlo in Italia perché dobbiamo andare con le leggi italiane. Quindi basta andare in pensione a 70 anni come gli altri paesi, dobbiamo applicare la legge. Quando c'è invece da fare altre cose che magari permetterebbero alle famiglie di... non lo possiamo fare. Va bene, ho capito. Quindi Grazie, grazie. Eugenio da Roma, buonasera. Buonasera, dottor dica, dica. Buonasera, dottor Parenzo. Senti. Io ho chiamato perché ho sempre utilizzato Radio 24 per informarmi della quotidiana, di uno spaccato di quello che succedeva sì. mentre io ero al lavoro. Sì. E sono sempre stato entusiasta della vostra trasmissione. Sì. Ultimamente devo dire che si è un po' trasformata evolvendosi nella satira. Non so sì. se è voluto perché è una forma evolutiva del percorso che state seguendo. La forma evolutiva, sì. Poi? Lo voglio chiedere a voi, perché alle volte sono più portato a sorridere, questo è l'indice dell'Italia della politica attuale, o è una vostra volontà per far sorridere la gente che in questo momento storico non sorride più? Quando la zanzarita tormenta la mia noce. Stefano da Roma. Buonasera. Dica. Senta, innanzitutto la mia telefonata potrebbe durare anche mezz'ora. Perché beh, non durerà mezz'ora, non durerà. Pronto? Oh, signora Petrassi? Sì. Buonasera, sono Giuseppe Cruciani, Radio 24. Di Parenzo, buonasera. Sì, buonasera, guardi. Come sta Cecilia? Riunione, ci dobbiamo risentire. Arrivederci. No, scusi ma attimo, era solo per... Cioè adesso non si può parlare nemmeno con gli aderenti al Movimento 5 Stelle, capito? Che ti abbassano il telefono. Sì. Capito? Tra l'altro c'è una polemica, come tu mi hai segnalato, sulla signora Cecilia Petrassi. Perché voleva già assistente parlamentare, non, vabbè, attualmente Scaiola, assistente di parlamentare altri. Di vari deputati del PDL, anche della Lega, anche di Belsito, anche di Stiffoni, eccetera, sì. che poi ha aderito un anno fa al Movimento 5 Stelle, ma adesso insomma in 74 la vorrebbero candidata, vabbè, la base insomma, si ribella. Alcuni la vogliono, vogliono candidata, la altri sostanza no. qual è? La sostanza che anche il caso della sua Petrassi dimostra. Che gli si sta rompendo il giocattolo al tuo amico Ron Hubbard Grillo II. Bah, certo, allora Stefano dica. Gli sta rompendo il giocattolo. Pronto? Sì, allora? Ma niente, allora se fosse una chiamata di 30 minuti 29 sarebbero di insulti verso sì. di voi. E ve lo dico perché, vi dico per quale motivo non c'è problema. Anche perché voi siete vaccinati a questo. Innanzitutto vi reputo abbastanza radiogenici e non fotogenici da questo punto di vista. Perché quando state in televisione e soprattutto Parenzo mi sembra un burattino sì. con molti fili legati sì. invece quando sta per radio si permette anche a microfoni accesi sì. e forse non lo so se lo fa apposta comunque a parlare male anche delle persone che parlano, tipo delle persone che hanno parlato prima, cioè magari andare un po' sottolineando quelli che erano i veri burattino lei ha detto, no? Cosa? Lei ha detto burattino, giusto? Sì, sto dico, verificando, guardi, se gli estravi per una querela, vada avanti. Ma lei può dire cioè, quello che vuole, ma, scherzo, cioè, ma lascia parlare avanti. Anche a noi. Sì, sì, lo prego, cioè, burattino, dunque. C'è una trasmissione, cioè la trasmissione di Radio 24 che mi è molto piaciuta con il signor Cruciani, è stata quella, mi sembra, di due anni fa, quando c'era un poeta sardo che lo prendeva in giro e lui addirittura, cioè, perché non ci stava, lo richiamava 20.000 volte perché era curioso. Ed è stata una trasmissione che se lei la potesse rimandare in replica, è stata bellissima quella, veramente. Cioè io non lo dico, cioè voi lo fate, avete tante cose da dire, cioè lo fate per satira, lo fate apposta, non si riesce a capire nulla, come non capirete me, quindi se sto scherzando dire veramente, perché è la stessa cosa che state facendo voi. Però io dico che siete abbastanza poverini da questo punto di vista, anche perché televisivamente cioè, non valete nulla, e ve lo dico sinceramente, anche perché non parlate mai, cioè non uscite mai fuori dai vostri binari, cioè quello, il Parenzo, capito, della situazione è governato, cioè dal telese della situazione di turno, sta zitto, parla quando gli viene detto, eccetera. Lì invece alla radio vi permettete di dire quello che volete, a offendere anche per le persone, perché lo fate anche a microfoni accesi. Nella città dolente, capito? Per me si va nell'eterno dolore, per me si va lo so, tra la perduta. Però se a gente. Me ci vuole un'ambulanza, a voi vi ci vuole veramente, non so che, il becchino forse. Zona di Roma, giusto? Zona di Roma. Zona... Hai capito? Roma Nord? Zona Roma Nord? Pronto? No, dico, se a me ci vuole l'ambulanza. Sì, sì, no, è giusto. Ma è zona di Roma Nord, sto appuntando. Sì, Roma Nord? Roma e Nord. E io dove lo devo mandare il becchino? Cioè voi? Roma Nord, cos'è? Che zona esattamente di Roma Nord? È la zona vicino al cimitero di Prima Porta. Vicino a Prima Porta. Benissimo, ci vorrà un attimo, ma insomma arriviamo. Ma io il becchino dove lo mando? La troviamo... Il becchino dove lo mando? La troviamo per strada, vero? La dobbiamo pestare. Dove lo mando? Va bene, però zona Roma Nord, prima porta. Ma perché non parla? Direzione. No, no, va bene. Mi sono divertito perché ho scherzato, non l'avete capito? Che mi sono divertito. No. Anche come fate voi, no? Mi sono divertito. Sì, però noi non l'abbiamo capito. No, ma io manco ho capito, cioè sono 3 anni che non capisco voi, cioè quello è il discorso. Fatemi ammenda, per favore. Succede nella vita. Permessi, succede, non so. Però in televisione la voglio vedere un po' meglio, un po' più in forma. Sì. Invece di essere azzittato da tutti, cioè non parla mai, sta zitto, perché è l'ultima ruota, cioè della televisione lei è l'ultima ruota, apposta fa tutti i programmi radiofonici, perché è solo radiogenico, non permessi è fotogenico, anche perché è abbastanza brutto a vedere, cioè le dico la verità. E quindi forse avrà anche delle crisi un po' personali, no, che ma qui, essere così in radio. Ma no? Qui scusi, qui, ma qui ma parla, io sto scherzando. No, ma qui sta parlando di Cruciani, però, giusto? Sì, ma io sto scherzando. Non lei però è sempre a Roma Nord, giusto? La zona? Sì. Ma io sto facendo satira, non lo capite? Fate presto. Sto facendo satira. Fate presto, voi. Come disse il Sole 24 Ore. Fate sì. Presto. Parenzo, tanto non lo condurrà mai porta a porta, si ricordi? Grazie. Non lo condurrà mai. Grazie. Mi ha detto a me, lei può solo fare radio. Grazie. Può solo fare radio, le dico sinceramente. A bordo c'è anche una barella, credo. No, sto parlando con gli infermieri, scusi. Stiamo arrivando. Filippo da Vicenza, buonasera. Filippo? Dica. Dica, dica. Allora? Filippo? A Raffaele, provincia di Ancona. Sì, pronto? Sì. Buonasera, mi sentite? Sì, la sentiamo. Buonasera dottor Cruciani, buonasera Parenzo. Sì. Io volevo semplicemente dire che è ora di uscire da questa crisi. Sì, questo è giusto. Sì. Questo è giusto. E io ho anche la soluzione. Sì. Oh, ottimo. Bene. Allora, la soluzione è questa. Fuori l'euro. Sì. Fuori Monti. Sì. Fuori Europa. Benissimo, Raffaele. E dentro ottimo. Lei in un ospedale, invece? No. No. Cambiamo noi la moneta, sì. E mettiamo il protezionismo. Lungo sì. Degenti. Ma lei è una specie di Barnard un po' più ignorante, diciamo. No, aspetta, reparto lungo degenti. Lungo perché? Scusate, degenti. Perché? Scusate. No, ma va benissimo, Raffaele. Scusate, ma voi siete allora siete di quelli che fate parte anche voi dell'elite finanziaria? Sì, sì, sì, sì. Certo, come no? Ah, come ecco, no? Allora ecco come si spiega. Beh, chiarissimo, è chiarissimo. Lungo allora degenze. Voi non state con il popolo. No, no, no, no, no. Noi siamo con flebo, le banche, con i finanzieri, BX4. Con i sanguisù, con le sanguisughe, con Monti. Ma lo sapete che anche il vostro lavoro è a rischio? Sì, certo, tutto sì. A rischio. Tutto. E appunto, allora scusate, perché non siete, non condividete questa mia opinione? E siamo protetti dal club Bilderberg, noi siamo mandati lì da Bilderberg, nominati. Ah, da... ecco sì. Perché vedete, ho capito, io ho sì. Detto che voi fate parte del, diciamo, della currimbola della scusa. Con briccola, vuole dire? No, perché io non sono, diciamo, sono ignorante. Non no, sono... ma perché? No, vabbè, diciamo che. Non ho fatto tante le scuole come l'avete fatte voi, diciamo. No, ma anche noi siamo ignoranti. Sono autodidatta, diciamo, come si dice? Autodidatta, ma va autodidatta. Bene. Esatto, autodidatta, diciamo. Benissimo. Però io, ecco, dico così, dico che noi dobbiamo ritornare un'altra volta a produrre noi sì. In Italia, perché sì. Tra l'altro abbiamo creatività, abbiamo tutto. Abbiamo il turismo, il sole, il mare, sì. Tutto, no? Sì. E ognuno deve produrre quello che sa produrre sì. e avere uno scambio commerciale fra di noi in modo che non manca niente a nessuno e sì. Siamo tutti bene. Non è sbagliata sì. Come teoria. No, non cioè, è sbagliata, non è sbagliata. Dice abbiamo il sole, il mare, l'andrangheta, la camorra, la pizza, tutto quello che ci serve. Sì, in fondo siamo autosufficienti. Abbiamo tutto quello che ci tutto, serve, anche... quindi non ho capito perché noi dobbiamo... Sì. Comprare questi soldi dalla BCE, pagare 80 miliardi all'anno di interessi sì. A discapito di noi. No, ma infatti non è chiaro questa cosa, no, non è chiaro. Non è, ma... Raffaele, senta allora, Bersani. Si candidi delle primarie del PDL anche aspetti lei. Aspetti un attimo, sono tutti contro l'euro, là, tutti contro l'Europa. Di mettere un po' d'ordine nella discussione. Io, se posso dire, poi non mi permetto di andare in casa da altri, ma quel che secondo me manca... è questo, ma vogliamo farla, volete farla una discussione sul motivo per cui si è arrivati fin qui? sia in termini di situazione del paese, sia in termini anche di crisi politica della destra. Ci sarà motivo? Si è fatto tutto giusto? Ma lei non c'è pensa... una riflessione o no da fare? Ma lei, ecco, io credo se... che senza questo è difficile trovare poi la bussola. Ecco, ma lei pensa che qualcuno all'interno del PDL, poi lo chiedo anche a Stefano Folli, sia nella condizione di poter fare un vero dibattito? Non ha l'impressione che invece Berlusconi li tenga ancora tutti un po'... Non lo so, guarda, qui io ce l'ho un'idea. L'idea è la seguente. Siamo entrati 20 anni fa, alla caduta del muro di Berlino, all'est festeggiavano la libertà, la Germania festeggiava l'unificazione, noi abbiamo avuto Tangentopoli, discredito della politica, è partita una politica personalistica, demagogica, fissata su una persona che comanda, e il problema è questo, che quando quella persona che comanda per un qualche motivo non è più in grado di dirigere, prima di tirarla via in un partito personale si fa molta fatica. E questo l'abbiamo pagato, non ha pagato solo la PDL, l'ha pagato l'Italia. E è per questo che bisogna uscire dai partiti personali, perché poi le paga il paese. Fosse solo questo il problema dell'Italia, cioè i 20 anni di Berlusconi, sarebbe facile risolverli. Corrado, provincia di Siracusa, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Buonasera. Ascolti, Cruciani, io volevo solo dirle perché sei così arrabbiato con Battiato. Ma io non sono arrabbiato con Battiato. Battiato è un meraviglioso poeta, come dice Parenzo, è un personaggio con una cultura sconfinata, va benissimo. Solo che uno o fa l'assessore o fa il tour. Ma non è così, ci sono persone che hanno... No, è così, vi assicuro, è così. ...fare più cose contemporaneamente e persone che magari riescono a fare una sola cosa. No, vita. Ma lui l'ha detto, poi, io devo fare... Una ho mia... carisma, scusi, è una persona che ha fatto però... sempre spettacolo, vuole fare... Ma non lo vuole fare nemmeno per perché ha detto... terra, e per la sua Corrado, terra. Scusi un attimo, però a me mi fa impazzire questa cosa. Allora, c'è l'assessore, prima Crocetta dice che Battiato deve fare l'assessore alla cultura, e va benissimo, che comprende turismo, spettacolo, una serie di cose. Lo stesso Battiato dice no, ma... la cultura è troppo impegnativa, voglio fare il turismo e lo spettacolo. Adesso pare che non voglia fare nemmeno il turismo. Ma di che parliamo? Ma di cosa stiamo parlando? Secondo me è una persona che può dare vanto e che... Benissimo, facesse l'uomo immagine, il consulente, l'assessore, un'altra cosa. Ci ma vuole presenza così, quotidiana. Sono, va non, bene, allora non abbiamo... Non abbiamo necessario una presenza quotidiana. Ma come no? Ci sono persone che non si sono mai presentate da nessuna parte, i nostri politici non vanno mai da nessuna parte, non fanno mai niente e non hanno mai fatto niente. Ci sono persone che magari dando una leggera presenza possono dare... Ma io divento pazzo, guardi. Sono persone con una certa intelligenza. Ma va benissimo, ma facesse l'uomo immagine. Ma infatti è quello, lo che adesso si chiama pomposamente assessore. Ma che significa? Ma in verità è uno che non prende una lira, ripeto, cioè è quello scriminante. Non mi, quello, scriminante. Non mi quello non mi interessa. Il fatto che non pigli una lira, no, che presta il suo tempo poco. Ma quello non c'entra nulla. A promuovere io un po' le cose. Io preferisco un assessore pagato. Magari ce ne sarà un altro pagato. Ma infatti magari ce ne sarà. Ho capito, ma che vuol dire? Cioè, meglio uno non pagato ma con autorevolezza e peso piuttosto che uno straccione di politico qualunque pagato e che poi vabbè, sta lì a fare le sue commesse, i non suoi hai capito, favori. Vabbè, non questo hai capito, non vuoi capire tanto. Ma non voglio capire, no. Ma adesso ti faccio forza un regalo. Forza Battiato, avanti tutta. Ti faccio un regalo. Chi ti c'è? Ragionier Spinelli? No. Sallusti? No. Lei conosce Ragionier Spinelli, Flavia Vento? Oh, buonasera. Mamma mia. Buonasera a tutti, come state? Bene, sono contento che mi risente. Mi risente, si salve. Allora, come la mettiamo quel sistema elettorale, signora Vento? Insomma, cosa devo dire? Che mi fanno un po', c'è cioè, un riciclaggio di vari deputati, di vari ex deputati che non so, fanno un po' ridere. Ma chi? Riciclaggio di chi? Io chiedo soltanto una cosa, che veramente abbassino gli stipendi a questi onorevoli, perché è veramente una vergogna quella gente che si muore di fame a casa, certo. Che prendono queste pensioni, stipendi altissimi e queste macchine blu. Quindi queste macchine blu. Questo. Scusi un attimo, signor Vento, ma lei lo conosce il dibattito in corso sulla legge elettorale? Il dibattito dibattito in corso sulla legge elettorale, beh sì che non si trovano i candidati, da quello che ho capito. Non si beh, trovano i candidati. Non certo, è esattamente così. E però poi dice perché uno si incazza, hai capito? Poi Cruciani, hai capito? Poi uno dice, ma perché Parento si arrabbia? Ma perché sente delle cose che urlano. Ma lei non può urlano usare questi termini scurrili a questo, insomma, a quest'ora, io, visto che ci sono forse pure i bambini. Ma a me viene il conato quando sento certe cose. Ma che male ti ha fatto la signora Vento? Che no, male ti ha ma fatto? Ma male nessuno, niente. Ma fa sesso almeno. Parli di robe di sua competenza. Guarda, io non faccio sesso da 6 mesi. Ecco. E si vede? E si capisce? Si capisce? No, ma guarda, preferisco insomma tenere il mio... Brava, brava, brava. Preferisco tenermi per il mio principe. Me. Che se insomma fare questa, diciamo che questa mercificazione anche del sesso lo trovo abbastanza. Ma possibile triste. Che quanti aspiranti principi ci sono in questo momento? Parecchi, ma prendono tutti buche infernali. Tutti buche. Ci dica qualche personaggio famoso che negli ultimi giorni, dopo le sue apparizioni televisive, non ultima quella dalla Parodi, dopo la sua notorietà via tweet, si è fatto avanti. Quale VIP chi si è? È fatto chi avanti? È? Nessuno, ma di personaggi famosi nessuno. Perché sanno che con lei tanto non c'è trippa per gatti, no? No, perché sinceramente non mi piace nessuno in questo momento e sono contenta di no, questo. Ma sono gli invece gli altri sono no? Gli altri, no, di famoso nessuno. E cosa? E cosa? Tutti? Sono tutti? Sono tutti presi, no? Tutti sposati, diciamo. Cosa apprezzano, direi, l'intelligenza? L'acutezza forse apprezzano, no? L'analisi, l'acutezza apprezzano. Ma no, direi. Ma è una bellissima ragazza. La prima cosa che si vede è sempre l'estetica in una persona. Poi dopo c'entra anche la testa. A lei tu... cosa piace in un uomo? Ma ha sentito che voce che ho io stasera? Una voce terribile perché mi... Preso... No, lei è una voce bella stasera, è fidanzato. Ma no, in questo momento hai no, capito? Sono... Aspetta, aspetta. Ah, perché lei piacerebbe avere una liaison col signor Cruciani. Ma che ne sai? Ha detto che non vuole no, uomini. Io posso aspetta dire che, guarda, aspetta l'uomo che mi piace, che mi potrebbe, però è sposato, sì? E lo trovo un bell'uomo, è Matteo Renzi. Ah beh, questo è interessante. Povero Renzi, rovinato definitivamente la gioia primaria. Come affossare in 40 secondi un potenziale. Cioè con Renzi come si chiama? Volo, voto, come no, si vento, chiama? Vento. Ah, la vende, perché il vento. Scusi un attimo, lei vorrebbe avere una storia con Renzi, vabbè, no, con Renzi. Ho detto che è un bell'uomo, punto. Ma ci farebbe l'amore? Ci si immaginerebbe abbracciata, aggrovigliata nel letto con Renzi che dice adesso. No, dai, su. Dai, per favore, ho detto che è un bell'uomo. Punto, che devo dire? Beh, non ha detto solo questo, no, lei per dire che è un bell'uomo, dunque, cioè, le piacerebbe, insomma, ma ha tentato qualche approccio? Ma no, ha detto che è un bell'uomo, punto, come si può dire che... Gli mandi un messaggio. E di che cosa parlerebbe con Matteo Renzi? Se vuole gli do il telefonino, vuole il telefonino? Eh? Quale sarebbe l'argomento di conversazione tra la signora Vento, ecco, e la prima cosa che la prima, che il primo argomento che affronterebbe con Renzi? I cani? Sarebbe? Il babysitteraggio ai cani? Il Parlamento toscano, non è il sindaco di Firenze? Sì, brava, sì, certo, allora... brava, acuta. Non vedi, ma cosa so? Vabbè, acuta, ho capito, allora... Acuta. Ma lei sa che si candida alla leadership del PD e dunque del paese, sì? Certo che lo so. Lo sa, sì. Cosa gli direbbe? Sicuramente prenderà più voti lui che il PDL. Ma quello sicuro, guardi, quello sicuro. E anche pure Grillo, credo. Vi vedo che se la batteranno. Scusi, ma lei preferisce Grillo o Renzi? No, io ho semplicemente detto che Matteo Renzi è un bell'uomo, punto. Basta, solo questo. Soltanto questo. Ma politicamente, insomma, sono tutti mostri. E invece sono tutti mostri. Renzi invece. Ma ci andrebbe lei con Renzi mano nella mano agli Uffizi? No, agli Uffizi, no. A vedere gli, ha mai visto gli Uffizi, ad esempio? Gli Uffizi mi piacciono molto perché c'è il mio quadro preferito, che è la Venere di Botticelli, che si trova appunto agli Uffizi. Beh, ma... vedi, ti ha fregato. Che romantica. Ti ha fregato questa cosa. Che bella. E lei ha la sindrome di Stendhal quando vede, no? Beh, mi piace molto la storia. Capito? La storia. Ma cioè, posso fare una domanda a Parenzo? Sì, ma cosa pensa lei del 21 dicembre 2012? Della fine del mondo? Sì. Che non è vero. Che è una cazzata pazzesca. E cosa pensa invece delle stelle e pianeti? Delle stelle dei pianeti? Ma non so manco che sono. Ma come delle stelle dei pianeti? Ma perché lei beve alle 20:55? Io sto facendo un'analisi del nostro universo. Lei crede nella fine dell'universo? Lei crede nella fine del mondo, signora Vento? A Galileo. Io credo che ci sarà sicuramente un'evoluzione dove Qualcosa succederà. E con questo la saluto, l'abbraccio, le do un bacino sulla guancia. Grazie, arrivederci. Io a no. Tutti. A domani 18:30. In questo momento io sto penetrando all'interno